addirittura bullonato, c'era il bullone passante che passava dentro il buco ed era stretto, si è spezzato. C'era il buco si è tagliato in due, capito, è uscito e me l'ha portato di nuovo quello della mansarda, gli ero sicuro di marrigo. Quelli non li avevo comprati da picco, ma secondo me ci vogliono quelli ripieni di Gianluca. Ci sono anche quelli, però non so che vuoi prendere. Non so che vuoi prendere, Rosanni. Lo vitti, non mi ricordo dove, come funziona, no? Intenzione di prendere quelli pieni e invece di fare il buco con il bullone passante saldarli un dadino sopra e avvitarli per tenerli fermi e farli un fermo proprio. Guarda, se sono di alluminio pieno è una situazione molto più robusta perché non piega come piega quello vuoto, l'alluminio vuoto. Quindi lo potresti, secondo me, tranquillamente prenderli e attaccare come era attaccato prima, magari maggiorare il foro, ma non di tanto, quindi lo faccio il foro passante, leggermente taglialo con una punta, ma a misura più grande e mettere un bambino con un cino d'acciaio. Perché lo sai cos'è? Che tu come fai il buco, i lati dove c'è il buco sono fini e quindi quelli sono più delicati, capito? Invece stavo pensando di farvi il buco, ma non mettere il bullone passante, e mettergli un dado fuori come si fa nei pali, per intenderci, nei pali telescopici, e mettere il bullone. Sbaglialo lì, ma è alluminio Gianni, ho capito cosa stai dicendo, le pali telescopici sì, c'è il bullone che serve come guida filottata, dopo il bullone che si ottige di più frena dentro il tubo che c'è dentro in questo caso. Ma lì se guarda già, è troppo fine lì la parte, troppo vicino all'estremità, lo puoi fare anche più sopra, se c'è spazio, se c'è modo di poterlo fare, anche un centimetro più sopra dove c'è più materiale, che è più forte il basamento. Secondo me poi io mi rendo, non me la ricordo più come la mantova, sinceramente. No, non ricordo più come il basamento della mantova. Sono entrato 5 cm dentro e poi gli ho messo il bullone alla fine, non è che l'ho fatto bene, solo che il vento l'ha troncato perché, ma tu lo sai il vento come picchia, se stasera sono salito a controllarmi i tiranti, tutto quanto, ne ho tirato uno perché si era un po' mollato, ma il resto non si sono mollati per niente, dopo 10-11 anni non c'è un tirante che si è mollato, c'era uno che chissà come ha fatto, deve essere il vento e cosa, la forza che ha mollato un po' i nudi. Allora l'ho smollato di nuovo, l'ho rifatto i nudi e poi alla fine li metto sempre il morsetto per non sciogliersi. Ho capito già, ma guarda, allora se metto le cose come siamo aperto la parte, quindi conta quanti anni ce l'hai, c'è anche misura del materiale che ti stai rendendo pulito, oggi domani, questo di vento c'è fatto, guarda. Aspetta, metti il radiale magari così, dice di sopra di quell'alluminio, la vedere se funzionano come dovrebbero funzionare quelle che ci sono prima, tutto lì, e se non lo potete riattaccare, già per quanto tempo ancora si dura già. Ma te è tornata nuova Gianni, è stato rifatto tutto col turno, eccetera, eccetera, non è che il pezzo col turno è rifatta tutta la massa interna col filo più grosso, le fascette tolte quelle che c'erano le messe in acciaio, cioè è tutta rifatta, tra l'altro è lucida, se tu vieni a vederla dice che tanto la stai facendo alla fabbrica, è solo il radiale che stava rompendo le balle. che ho avuto già problemi a bucare quelli lì, li ho fatti buchi lo stesso, no, rimasto, perché se c'era talmente li ho fatti i buchi, li sono più corti, va. Ma l'ha fatta? No, distanza, ma l'ha fatta? Ci devo mangiare. Fatto sta che... Fatto sta che praticamente devo trovare dei radiali, perché ci vuole... Bisogna mettere una morsa, sì che la voglio, sì. Voglio mettere una morsa per fare il buco, perché se no è un casino, io l'ho bucata a casa, mi contrappano, mi vuole di mille anni, e mi dà per anche le attrezze, già due, è quello che c'è. Esci da fuori e mi grode. E beh, fantasma. E basta asciutta, ti piace la pasta asciutta? A me mi piace la pasta asciutta, le gote, tutto va. No, già non c'è che sono d'Antonio, ma non c'è un faccio maschio io. A me forse la città se mi sono QRM, hai così fino. Vedi che sono una vergogna, sono. Oh, io sto andando a mangiare, dai. Ma tu, ma dove sei adesso? Dove c'è? Via del Nazionale? Con che altro stai uscendo con il po'? Cassettino di capo con quella voce di accordatore d'antenna che avevo preso da Natalino. Prima gli dice un pezzo di capo, ma pure il pezzo di terra. Se lo accorda anche il cacciavite. L'ha provato col cacciavite, ha accordato col cacciavite, fatti un conto. È molto buono con l'accordatore. Con la laghi crociati. A Puglia. Vabbè, là, io vado a mangiare, dai, ci sentiamo dopo casomai, se ci c'è. Mi saluto. Non è pronto? Ancora non è pronto, allora vi saluto. Ma sì, non è che se la sei nato lo piatto, no? Sai fare una famiglia, ti puoi in banca, ragione che cosa è stato fatto, non c'è un peso. Non ci sono 10 minuti. Ciao ragazzi, ci sentiamo, ciao ciao. Ciao ciao, ciao. Io. Antu. Signore Eugenio, mi raccomando, stasera tutti davanti alla televisione. Antu, l'hai mangiato l'agnello con i cardi, le olive e i finocchietti selvatici? Ma adesso, Assolutamente sì, signore Eugenio, stasera tutti di fronte alla televisione. Perché, cosa c'è? Tutti assolutamente di fronte alla televisione, Eugenio ha detto grode. Cosa? Grode ha detto stasera tutti assolutamente da fronte alla televisione. E io l'ho preso davanti, ho messo la pagina qui in tutti. Che cosa c'è? Lì che c'è il corso della CISA, forse ci sono i miei colleghi, mi devono tutti intervistare a coso, a videolina. Ma non so se sia oggi o domani. Ma so, di questi divisori di piccoli piccoli da camera che c'erano prima, tipo quelli soli, non so se ce l'avete presente, li fanno ancora? Oh, a colori. Ti ricordi quelli che avevano l'antenna che si alzava, che erano pocket, proprio di quelli tipo pacchetti di sigarette, così? Non te le scopico tipo le radioline di transistor che c'erano prima, che se la fanno me la metto, se non mi metto di quelle che si mettono in macchina, non metto quella lì in camera, me la metto dentro il mobiletto e faccio una cosa a teccia a teccia. Bene Gianluca, di questi televisioni piccoli che facevano prima con l'antenna telescopica, ci sono presi di quelli soni, piccolini erano, rimanevano tipo, voglio dire, un pacchetto di sigarette così, che si vedeva benissimo. Ma li pensavano che non li ma li fanno ancora? Non penso. Perché quelli non prendono senza digitare, è vero? Non prendo più nulla senza digitare Gianni, ma la madre è tutta la così, ma non che non ci abbiano... un sistema integrato ultra minuscolo, diciamo così compatto, in base alla televisione non tascabile. Non so, non lo più piccolo neanche da vedere. prendo una mezza idea di metterlo a pesce, non mi metto quello di macchina, quello che ci mettono nella macchina, non metto. Sicuramente mi sono sapere i gusti, quello non è che... Sì, dopo trasmette bene ugualmente, ma probabilmente perché è stato allineato, è stato fatto. Quello lì, diciamo che come te l'ho dato, l'hai butto subito in funzione. Cioè, quello lì mi sembra che l'avevi spedito, l'avevi fatto aggiustare. Boh. Sì, quello lì quando mi era successo quella scarica elettrostatica, come cavolo era, che ne era partito quel giro della ricezione, che mi arrivavano i segnali 3-4 santiagi in meno, quello lì dopo mi ha colto, me l'aveva chiuso, una volta ce l'aveva lì, ha fatto tutte quelle cose che doveva fare, ma anche quello riguardo il K con Claudio l'abbiamo regolato come nel suo, che c'era tutta la cosa chiusa. Insomma, cosa cavolo era? Una cosa della modulazione, se non mi viene il nome, comunque sia, l'abbiamo fatto con quelle cose, va benissimo. L'ANC. L'ANC. Ha pagato. Vabbè, comunque là, non sei soddisfatto. Come mai non sei ancora soddisfatto? Però boh, troppo basso, se quando sta arrivando la produttore. Sono cambiato parlava sul computer, ma il computer te l'ho detto Alan AU 30. Sì, dai, adesso lo controllo perché mi faccio accendere, c'ho la penina giù nella in macchina, la penina di internet, capito? Però già mi cerco di ricordarmelo, magari domani se riesco a entrare su internet. Una cosa per l'altra la controllo. È bella anche come estetica, io c'ho gusti già, non ti preoccupare. Nizza, Nizza, è Nizza, grigio attorno, la cassa è quel grigio tipo, cosa di bosso, dici fumo di Londra, e la cassa, la parte grattinata della cassa di davanti è bella, bella allora, comunque il quadrante è anche stretta, non è profonda, vero? Sì Gianlu, ma stavo premendo un altro microfono, per quello non mi sentivi, ti rispondevo ma non mi sentivi. Aspetti, sei confuso, stavo dicendo, è stretta, non è profonda, vero, non è pantufa, lì. Tre dita, là. Gianlu, secondo show. Con mia moglie, sono attivista, niente, non voglio che magari mi dica sono più forte per la radio di me. Gira gira, no, non è così, non è così, è che uno ogni tanto si rilassa con deve fare tutto, non deve trascurare nulla, deve avere il tempo giusto e necessario per tutto, se no la bilancia non prende troppo da una parte. Non lo so, ma quando uno è stanco si curica e si avvicina alla letta, ce l'ha fatto, la accende, non è che... No, ma tranquillo che io dedico il mio tempo un po' a tutto. Certo, certo. Anche gli anni passano un pochettino, che ci sono, cambiano anche abitudini, non è che uno o della famiglia da reggio a una radio assolutamente, è una cosa che uno fa, quindi fa piacere, anche penso che anche la famiglia bisogna condividere certe cose. Ma molte volte è per dire, io sto modulando e mia moglie è vicina a me, capito? Siamo abbracciati mentre stiamo modulando, parliamo, quando per dire, infatti molte volte mi rilanciano, io sono occupato a parlare con lì, non è che... No, lì viene molto spesso e anche quando sono seduto qua si avvicina, si siede vicino a me, non è mai sola. Certo, certo. Sperando come sta per due fini di enume, ma non è buon'ora già. E ma lungate non lo so, diciamo. Mamma mia, lungate dove sarai, diciamo. A che va dall'inverno all'estio? Ma non ho chiamato a mangiare Gianlu. Ti lascio, riprendo dopo se ci si dà. Se no sto facendo così, se non ci riesco mi faccio un po' di ascolto sui 40 metri o sui 20 metri, ripeto. Non c'è problema, io adesso vi roba, stavo guardando così la cosa alla TV, niente di che, comunque sia. Gianni, ok, dai, vai tranquillo, non c'è problema. Se fai chiamate già sono qua. Ciao, buona cena. Ok Gianlu, grazie. Non so quanto tu la fai, adesso l'hai già fatta, boh. Comunque buona cena ce la devi fare, dai. No, non l'ho già fatto, susurrando, veloce pure lì. Voglio recare il poco più poco possibile in cucina. stava caro. Vabbè, là. Ando, la mattina e torno, intanto non è che mangio molto, è solo per prendere il pastiglio perché devo essere il stomaco pieno. Sì, fai tranquillo. Ciao Gianna, dopo buon cerco. Ciao Gianna. Attenzione 12. Thank you.